Salve a tutti cari amici, bentrovati dal vostro speaker vagabondo Fumino e benvenuti alla puntata numero 16 di Vagabondo in giro per il mondo. Oggi, mercoledì 1 febbraio 2017, abbiamo cambiato il mese e cosa è successo? Abbiamo superato finalmente la merla, la famosissima merla, i giorni più freddi dell'anno. Chi lo sa, quest'anno io ho fatto caso ad una cosa: è stato un inverno, almeno dalle mie parti, molto più freddo rispetto agli ultimi anni. Però è solamente rispetto agli ultimi anni, alla fine è stato un inverno normale perché ci sono le montagne e chiaramente in inverno fa più freddo che chiaramente in estate, e questo è palese, no? È scontato. Ma allora mi chiedo, ma perché è stata fatta una campagna, fra virgolette, terroristica da parte della stampa, dei giornalisti in genere, per quanto riguarda il freddo? Cioè, questo io me lo chiedo sempre, tutte le volte che succede una cosa del genere. Se ci fate caso, i giornalisti hanno questo modo di fare terroristico. Io alla fine l'ho un po' ribattezzato giornalismo terrorismo, perché ci hanno bombardato per settimane con sta storia che doveva nevicare, e nevica qui, e farà tanta neve, e neve di sotto, e neve di sopra. Al che la gente alla fine si è anche presa male per questa cosa qua. Io, cioè, questa cosa la dico perché la riscontro, l'ho riscontrata nelle persone. Un giorno a fare la spesa, davanti a me c'è una signora anziana, che chiaramente è una di quelle che guarda di continuo probabilmente telegiornale, leggerà magari un quotidiano, il meteo, il famoso meteo, alla fine del telegiornale, ah sì, guardiamo il meteo. Intanto, prima cosa, ma che lo guardate a fa? Cioè, ma che ci avete da sistemare tutti l'orto il giorno dopo? Ci avete da seminare le carote? Ci avete da seminare l'insalata? Ci avete da sapere se piove o se non piove? Che ci avete tutti da andare a governare gli animali? Ma no, il 90% di noi che ha da fare? A allevarsi, andare nell'ufficio, andare a scuola, andare in fabbrica, e chi c'ha un lavoro, oppure a un bar chi il lavoro non ce l'ha magari. E quindi voglio dire, ma che vi cambia sapesse domani piove, c'è il sole, è freddo e caldo? Domani si vedrà, boh, si apre la finestra, è nuvolo, piglio l'ombrello, non è nuvolo, non lo prendo, fa freddo, mi vesto di più, non fa freddo, mi vesto di meno. Cioè, tutta sta mania, sta curiosità di sapere il clima, il tempo e che farà e che non farà. Fatto sta, incipit iniziale, questa signora gli dice a quella della sì, ma dammi anche questo, ma dammi anche, aveva fatto una carrellata di roba da mangiare, perché poi non è che nessuno gliel'ha chiesto, però lo dice da sé, dice, fa, perché hanno detto che nevica se poi non posso uscire di casa tipo domani. Ma io, ma signora mia, ma ci avrai 70 anni, ma quanto mangi? Cioè, ma se anche in casa siete in due, te e tuo marito, ma quanto mangi? Cioè, voglio dire, comprare una carrellata di roba, ma che pensi che venga? La neve nucleare, che non si può uscire di casa per chissà quanto tempo. Cioè, se domani nevi, intanto ci avrai il fondo, il garage pieno di scatolette, pasta, carta igienica, perché chiaramente bottiglie d'acqua. Io chiaramente mi è capitato di vedere alcuni fondi di persone anziane, sono comiche, da dire, qui questi sono pronti se scappa una guerra, questi si nascondono nel garage, a mangiare per un po' ce l'hanno. Cioè, io, ma come si ragiona? Come si ragiona? E questa cosa poi, tra l'altro, l'ho sentita fare anche in casa, fra virgolette. Dice, fa, sì, sono andata a fare la spesa dalla mia mamma, andai a cena da lei una sera, sono andata a fare la spesa, ho preso un po' più di roba perché dice verrà un freddo. E vabbè, mamma, ma se viene freddo, ma che te cambia? Cioè, e che fai? Non esci più di casa se viene freddo? Se viene freddo, te fai le solite cose come sempre e che ti cambia? Non ti cambia nulla, no? Vabbè. Tanto sta, e niente, e questo. Poi si continua la cena con la mia mamma, e io mi ero messo, perché in casa della mia mamma c'è la televisione, io la televisione non la guardo, non ce l'ho, però c'era la televisione, spengo la televisione. A un certo punto si inizia a mangiare, fa, guarda, spengiamo, tanto si parla fra di noi, cioè, voglio dire, ci si vede a cena non così spesso, anche se ci si vede praticamente tutti i giorni, però dico, mentre si mangia, invece che la televisione, parliamo noi, si parla di quello, di quell'altro. Dopo un pochino, quanto? 5 minuti? Mi fa, rimetti 5, voglio vedere il tempo. Io, ragazzi, dico, mamma, ma allora non ci siamo te. Ma che lo guardi a fa? Ma che ti serve? Vabbè, e niente, questo io lo dico questa cosa qua, che ci sa questo vizio, no? Perché poi ci fanno terrorismo, ci dicano neve, e poi che succederà? E quando è giugno ci diranno un caldo come quest'anno, caldo record, il caldo uccide, il caldo di qui, d'estate ti fanno ammazzare dai freddo, dai caldo, scusate, d'inverno ti fanno ammazzare dai freddo, cioè proprio ti mettono nella condizione. Il telegiornale è diventata una cosa scandalosa, cioè quelle poi rare volte che mi capita di vederle è diventata una cosa allucinante. I quotidiani lo stesso, cioè ma che giornalismo è questo? Dopo un quotidiano, io mi ricordo quando ero bambino c'era Cronaca Vera, era un settimanale in cui c'erano dentro tutte le cose più truci e schifose che si può vedere: rapine, stupri, ammazzamenti, squartamenti, cioè quella di lì, quello ammazza genitori, ma era un settimanale fatto apposta per gente che morbosamente si voleva guardare sta roba e se lo comprava appositamente, bene, ci mancherebbe, se c'è gente che gli interessa. Ma no, che oggi tutti i telegiornali, tutti i quotidiani, tutte le notizie che danno è una catastrofe, i titoli sono tutti catastrofici, succede un qualcosa, te l'amplificano a mille, ci mettono le foto che non sono vere, le foto che non sono vere, perché ci mettono foto e dice i ladri, ci mettono la foto di uno con una benda che scavalca una finestra, e ma che? C'era il fotografo di giornale lì mentre il ladro entrava in casa, ma quelli sono attori presi per fare una foto, perché te lo mettono nel giornale, tu vedi la foto e ti colpisce la notizia, capito? Scelgono di mettere delle foto apposta per farti breccia nel pensiero, e questa è una cosa schifosa, secondo me è una cosa che dov'è la deontologia del lavoro, cioè di questo tipo di lavoro? Dovrebbero fare informazione, invece fanno disinformazione più delle volte. È per questo che io a un certo punto ho deciso basta televisione, guardo il giornale, lo guardo per guardare le foto, perché in effetti mi ci faccio un po' di risate con questa storia delle foto nei giornali, e quindi sono un po' avvilito da questa cosa, perché vedo che la gente invece ancora, madonna, è attaccata lì a vecchi concetti, quando, che ne so, magari quando è nata la Rai, la televisione in generale è nata anche per fare bene, c'era un tasso di analfabetizzazione in Italia clamoroso, elevatissimo, e c'erano un sacco di trasmissioni in quel tempo che aiutavano la gente anche un po' a alfabetizzarsi, a conoscere le parole e tutto quanto. Ma oggi non è più così. Oggi la televisione vende un prodotto, ci fanno sembrare le cose come prodotti che non sono più reali, cioè non vale più il dire l'ha detto la televisione e allora è vero, l'ha detto il giornale e allora è vero. Attenzione, anche internet, stesso discorso, cioè dove c'è una grande massa di informazioni che vengono da fonti più o meno X a caso, e non è detto che sia tutto vero, va saputo sempre filtrare, considerare, e soprattutto c'è da essere sempre molto critici riguardo a quello che ci dicono, riguardo a quello che si legge, anche se ce la spacciano come notizia, perché è facile, molto facile mettere insieme ad esempio un servizio del telegiornale che ti fa sembrare una cosa in un certo modo quando in realtà è tutta in un'altra. I tempi di internet non più solo appannaggio dei giornalisti, l'hanno iniziato a farlo i politici. Avete visto ad esempio cosa è successo dopo quella tragedia a Rigopiano della valanga che ha sommerso l'hotel, povera gente, io gli so nel cuore, allora la famiglia, è una cosa abominevole, paurosa. Cosa è successo? Ci sono stati politici che andavano lì a farsi la foto, a far finta di far qualcosa e tutto quanto, per poi dire avete visto, quello non ha fatto niente, io sono qui, e quello ma dove sei? Sei andato lì un minuto, sei andato lì un'ora, forse un'ora, poi dai freddo sei venuto via, perché a 2-3 metri di neve in quelle condizioni te non ci sei stato, te poi sei tornato al caldo a godere di questa cosa qua. Quindi attenzione, tutto quello che ci viene passato, compreso me, io mi ci metto, compreso me che mi state ascoltando, tutto quello che vi viene dato filtratelo, consideratelo e criticizzatelo, non prendete le cose per buone così calate dall'alto solo perché lo dice una televisione, solo perché lo dice un giornale. Criticizzate sempre tutto, fatevi le domande, perché se non vi fate delle domande siete morti in partenza, siete vittime di queste persone che con questo modo di fare non ci fanno i soldi, ma i soldi fra virgolette, perché i soldi alla fine non sono nemmeno una cosa così rilevante. Tengono il potere, vi hanno in potere, vi hanno il loro potere. Quindi attenzione, attenzione cari amici del vagabondo. Il vagabondo ve la dice questa cosa, voi fate come vi pare, e questo ve lo dico perché io fo così, io so primo degli stupidi, quindi se volete fare come me seguite l'esempio del primo degli stupidi, non sono assolutamente nessuno. Però a me queste cose mi fanno nascere questa voglia di dirvele e ve le dico. Voi prendetele, usatele come vi pare e vi auguro di avere la buona volontà di riuscire anche solo a mettere in discussione le cose. Già sarebbe tanto, non vi dico di dare retta a me o di dare retta ad un altro o ad un altro ancora. Mettete in discussione tutto, tutto, tutto, tutto. Cari amici del vagabondo, anche per oggi la puntata termina qua. Mi auguro di avervi fatto un po' pensare e di avervi tenuto compagnia. A presto con la nuova puntata del Vagabondo in giro per il mondo, come sempre sulle frequenze di Radio Big World. Ciao a tutti e come sempre siate saggi!